2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 30 maggio 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Il nostro sito internet è www.radio24.it. Naturalmente tutte le informazioni sul nostro programma sono nelle pagine di 2024. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile sul nostro servizio podcast. Anche in questo caso trovate tutte le informazioni online. Il sistema podcast vi permette di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione, aggiornandolo automaticamente. 7 giorni fa sembrava imminente il lancio di un nuovo motore di ricerca chiamato Kumo e targato Microsoft. Ora si sa che il nuovo motore di ricerca esiste, verrà lanciato mercoledì 3 giugno e si chiama Bing. Quindi Kumo era solo il nome in codice, Bing è raggiungibile all'indirizzo www.bing.com. C'è una pagina che mostra alcune caratteristiche con un video, ma per ora l'indicazione è coming soon, quindi in arrivo. La prossima settimana sarà messo online questo nuovo motore di ricerca della Microsoft e naturalmente Bing promette di fare molto di più rispetto a Google. Vedremo poi come funzionerà questo nuovo servizio. La scorsa settimana abbiamo parlato della tendenza in alcune pubbliche amministrazioni italiane di bloccare l'accesso a Facebook e ad alcuni siti internet dedicati all'intrattenimento. La gente infatti perde tempo su questi siti e quindi meglio fermare questo malcostume. Bene, questa settimana il ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, Renato Brunetta, ha diffuso una direttiva che di fatto dice basta all'uso privato di internet da parte dei lavoratori pubblici. L'utilizzo delle risorse ICT da parte dei dipendenti, è scritto nella direttiva, non deve pregiudicare ed ostacolare le attività dell'amministrazione o essere destinato al perseguimento di interessi privati in contrasto con quelli pubblici. Un'altra notizia riguarda nuove multe dell'antitrust a Telecom Italia e a Vodafone per pratiche commerciali scorrette sulla telefonia fissa ADSL, con multe per un totale di 460.000 euro. Sono state multate le campagne pubblicitarie relative ad Alice Casa Senza Canone di Telecom Italia con 200.000 euro di multa e Vodafone Casa 260.000 euro. Queste sono sicuramente buone notizie, alcuni dicono però che non bastano queste multe, vorrebbero più salate. La Commissione europea si occupa anche della musica online. Secondo la commissaria alla concorrenza Neelie Kroes, è necessario abbattere le barriere che ancora impediscono la diffusione e il libero acquisto di musica online nell'Unione europea. La Commissione propone quindi una licenza europea. Sapete che i negozi online hanno ancora delle barriere piuttosto solide, ci sono alcuni vincoli relativi appunto alle licenze, quindi magari un negozio che vende sul territorio italiano non può vendere in un altro paese e viceversa, quindi è difficile per un consumatore italiano, se non impossibile, acquistare musica da siti internet di altri paesi. Quindi viene suggerita, e la Commissione europea sta lavorando per cercare di trovare un accordo tra le major musicali per raggiungere appunto questa licenza europea, quindi abbattere i confini e fare di tutta l'Europa un unico mercato anche per la musica online. Vi ricordo che nella seconda parte di 2024 sarà con noi Francesco Caio, uno dei manager italiani più apprezzati nel mondo, esperto del settore delle telecomunicazioni. A Caio, lo ricordiamo, è stato affidato in autunno il compito di realizzare un rapporto con alcune opzioni per lo sviluppo della banda larga in Italia. Il rapporto gli è stato affidato dal governo italiano. Caio ha già lavorato ad un dossier di questo tipo in Gran Bretagna. Adesso parliamo di una novità che è stata annunciata a febbraio. Gli ascoltatori più attenti ricorderanno questo annuncio fatto da Nokia al Mobile World Congress di Barcellona. lo store, il negozio virtuale, quindi di Nokia, dove vendere applicazioni per telefonini e smartphone. Questo negozio rientra nella strategia chiamata Ovi. Saluto Marco Argenti, che è responsabile mondiale di Ovi Store, collegato con noi da New York. Benvenuto a 2024. Grazie mille, buongiorno. Diciamo subito di che cosa stiamo parlando. Di un negozio virtuale per fare che cosa, per acquistare che cosa e destinato a chi? Diciamo che oggi ogni volta che viene venduto un telefonino, la parte più tradizionale, più telefonica, diciamo, è solamente uno dei pezzi che compongono un puzzle di una vera e propria soluzione che permette di accedere a internet, che permette di accedere a contenuti anche multimediali in mobilità. Ovi Store cerca di essere la risposta a questa esigenza, offrendo un unico punto molto chiaramente identificabile, parte diciamo di ogni telefono, dal quale i nostri utenti possono effettivamente soddisfare la propria voglia di contenuti, trovando sia le applicazioni più tradizionali, ma anche video, audio e diciamo qualsiasi contenuto che è fruibile sul proprio telefonino. È un portale, un negozio accessibile dal computer e anche dal telefonino? Sì, Ovi Store è disponibile in varie forme, è disponibile su desktop, diciamo dal PC, semplicemente scrivendo store.ovi.com, è però anche disponibile, diciamo, poi è un po' l'utilizzo principale, direttamente sul telefonino. Come? Scaricandolo anche qui da store.ovi.com oppure dal nostro servizio esistente che si chiama Download, che è presente in moltissimi telefonini, quindi è possibile scaricare quello che noi chiamiamo il client, ovvero proprio il negozio che da quel momento in poi viene a risiedere sul terminale appunto con una propria icona, oppure diciamo da giugno, quindi dall'N97 che è il nostro modello di punta che appunto sta per uscire anche in Italia, da giugno in poi, dall'N97 in poi, Ovi Store sarà distribuito come parte integrante più o meno di ogni terminale che appunto verrà prodotto e distribuito da Nokia, quindi questo ovviamente ci darà accesso diciamo ad un mercato molto elevato. Ricordo che appunto l'anno scorso Nokia nel 2008 ha venduto circa 450-480 milioni di telefonini, quindi insomma sono più di un milione di telefonini al giorno, quindi la nostra speranza, il nostro comunque obiettivo è quello di avere presto appunto Ovi Store disponibile in tutti i telefoni marchiati Nokia. Senta, semplificando molto, potremmo dire che come fino ad oggi si installa un software sul computer con questi servizi, con i negozi che offrono le applicazioni, si possono installare software sui telefonini? Sì, certamente. La cosa interessante è che con Ovi Store noi cerchiamo di andare però anche oltre il software e l'applicazione. Infatti Ovi Store ad esempio offre anche contenuti video e contenuti audio, addirittura si possono fruire diciamo di serie televisive. Abbiamo fatto un accordo per esempio con Fox, per cui la serie televisiva 24 è disponibile anche su Ovi Store in una versione speciale chiamata Mobisode. Sono episodi diciamo particolarmente prodotti per il telefonino, quindi serie televisive, filmati per esempio di Lonely Planet, di esplorazione geografica, eccetera, quindi una varietà di contenuti che veramente portano questa esperienza, crediamo essere un po' diciamo a metà tra l'application store, ma anche diciamo quasi un'esperienza televisiva o cinematografica, quindi cercare oggi di introdurre anche un elemento media all'interno di un'offerta che tradizionalmente generalmente offre contenuti di tipo applicativo. Il fatto che Nokia abbia chiamato alla guida di una parte strategica dell'offerta, della nuova offerta dell'azienda finlandese, un manager italiano, oltre alle sue qualità, che non mettiamo sicuramente in dubbio, ma il fatto di venire da un'esperienza italiana, in qualche modo è stata questa una buona palestra? Direi che insomma, osservando, al di là del caso personale, osservando l'industria diciamo che noi chiamiamo del mobile entertainment, ovvero della fruizione di contenuti su telefonino, alcuni dei market leader a livello mondiale sono appunto società italiane, e questo sicuramente non è una coincidenza e ha a che fare col fatto che magari l'Italia non ha inventato la telefonia mobile, ma sicuramente ha inventato molte parti, diciamo, di quello che oggi è la fruizione di contenuti su telefonino. Alcuni dei servizi che vengono introdotti solamente oggi, ad esempio negli Stati Uniti e in altri paesi, sono appunto stati introdotti in Italia parecchi anni fa, quindi abbiamo visto l'introduzione dei primi esempi di mobile entertainment all'inizio del 2000, abbiamo visto le prime reti 3G già nel 2003, quindi molto prima che in molti altri paesi del mondo. Questo ha creato un po', diciamo, una palestra sia, diciamo, gli utenti, ma anche, se vogliamo, i manager che sono riusciti a fare un'esperienza che poi viene naturalmente poi trasferita in altri paesi del mondo, dove l'evoluzione dei telefonini magari segue una curva leggermente spostata in avanti nel tempo. Immagino che uno dei vincoli maggiori allo sviluppo e alla diffusione di servizi di questo tipo sia ancora la scarsa disponibilità in alcuni paesi, oppure ancora l'alto costo delle connessioni ad internet via rete cellulare, Argenti. L'accesso ad internet e l'accesso ai dati è una delle componenti fondamentali, ovviamente, di qualsiasi store che permette lo scaricamento di applicazioni. Nel nostro caso è ancora più importante in quanto ovviamente forniamo accesso anche a contenuti multimediali. Devo dire che quindi il nostro destino, se vogliamo, è veramente legato anche al destino di internet, della sua diffusione sul telefonino, che però sta crescendo in maniera impressionante. Oggi, grazie al fatto che vi sono delle tariffe agevolate, che vi sono sempre più utenti su, diciamo, dei piani che sono disegnati ad hoc per poter permettere l'accesso ad internet, questo ha comunque facilitato moltissimo il nostro lavoro, quindi in qualche modo i nostri destini sono insieme, se vogliamo, ai destini più generali delle persone che accedono ad internet tramite il proprio telefonino, e quindi, se vogliamo, è un problema che inevitabilmente viene risolto e già oggi ha un livello, diciamo, di maturità che è molto molto superiore di quanto abbiamo mai avuto in passato. Bene, io Argenti la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buon lavoro, a presto. Grazie mille, arrivederci. Era Marco Argenti, responsabile mondiale dell'Ovi Store di Nokia, Vice President Media, quindi con un occhio d'attenzione a tutta la parte media di questa azienda che, come abbiamo detto più volte, si sta spostando dalla semplice e mera produzione di telefonini, seppur tecnologicamente molto avanzati, ma sempre più verso una cosiddetta Internet and Media Company, che quindi fornisce anche servizi e contenuti. Del resto questa è una tendenza che abbiamo descritto più volte parlando dell'evoluzione del mercato della telefonia mobile. Questa tendenza, in modo particolare, a lanciare anche servizi e store, negozi virtuali online dai quali scaricare software, le cosiddette applicazioni, e infatti si chiamano application store, dicevo, questa tendenza è stata lanciata da Apple con l'arrivo dell'iPhone e anche di tutta l'offerta all'interno di iTunes. Sicuramente riparleremo di questa tendenza, di questo mondo, anche presto, perché proprio Apple nelle prime settimane del mese di giugno farà alcuni annunci e molti tecnici, molti sviluppatori di software di Apple si ritroveranno in California, quindi al loro rientro dall'Italia alcuni li intercetteremo per parlare di questa evoluzione del mercato della telefonia mobile. Ma come vi ho detto più volte, un conto è se si muove un piccolo produttore di smartphone, un conto è se si muove ed entra in questo ricco mercato e promettente mercato il più grande produttore di telefonini, che, come avete sentito, produce e vende ogni anno 450 milioni di telefoni. Vi anticipo che la prossima settimana, tra gli altri argomenti, ci occuperemo di TV a LED, TV LCD retroilluminate a LED. Potremmo dire un argomento a grande richiesta, visto che alcuni di voi ci hanno fatto proprio una richiesta specifica via email. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci: 2024, quindi 2024, @radio24.it. Nella seconda parte del nostro programma sarà con noi Francesco Caio, lo ricordiamo, uno dei manager italiani più apprezzati nel mondo, grande esperto del settore delle telecomunicazioni. Parleremo di banda larga perché a Caio è stato affidato dal governo italiano il compito di realizzare un rapporto con alcune opzioni per lo sviluppo della banda larga, un settore strategico per il futuro di tutti i paesi. E quindi anche l'Italia dovrà cercare di accelerare il passo per la costruzione di una nuova rete per la banda larga. Adesso parliamo ancora di telefonia mobile. Prima abbiamo parlato del lancio di Ovi Store, il negozio online virtuale di Nokia. Adesso invece parliamo del mercato italiano. Ricorderete che 2 anni fa ci siamo occupati degli operatori mobili virtuali, cioè aziende che non hanno una propria rete di telefonia mobile, non hanno cioè antenne, ma affittano la capacità di trasmissione dai 4 gestori italiani che invece hanno antenne, infrastruttura e hanno una licenza pagata allo Stato per trasmettere e utilizzare le frequenze sia GSM che UMTS. Per l'utente finale non cambia nulla, forse in alcuni casi ci sono anche alcuni vantaggi in termini di tariffe, in particolare per la voce, cioè si può essere cliente di un tradizionale gestore così come essere cliente di un operatore mobile virtuale. Sapete quanti sono oggi gli operatori in Italia? In totale ce ne sono 20, quindi i 4 tradizionali, cioè TIM, Telecom Italia, Vodafone, Wind e 3, e ci sono 16 operatori mobili virtuali, incredibili. I primi sono stati proprio a giugno, sono nati proprio a giugno 2007, Coop con Coop Voce su rete TIM e Carrefour con Uno Mobile o Uno Mobile su rete Vodafone. Tutti questi operatori sono di fatto, potremmo dire, un'estensione mobile di aziende che fanno altro, cioè i supermercati hanno lanciato le proprie SIM, soprattutto per fidelizzare i clienti e magari associare il traffico telefonico con promozioni sullo scaffale. Ci sono poi anche società che distribuiscono carburanti come ERG con ERG Mobile, oppure ci sono operatori fissi come BT, Fastweb e Tiscali che possono così lavorare su offerte convergenti fisso mobile, la famosa convergenza. Ma la nuova frontiera è quella dell'erogazione in mobilità di servizi che normalmente vengono erogati in altri luoghi. A questo stanno lavorando in modo particolare le autostrade che hanno la loro SIM targata Telepass mobile, Poste Mobile, l'operatore di telefonia delle Poste, che sta lavorando per erogare servizi che tradizionalmente vengono erogati in posta ma anche via cellulare, e anche una delle ultime arrivate, ovvero Noverca. Davide Carnevale è il direttore marketing. Sta diventando un mondo, diciamo, abbastanza affollato. Quello su cui Noverca proverà a farsi spazio, e siamo tutti sicuri che ci riuscirà, è soprattutto un mondo dedicato ai servizi. Noverca nasce con l'intento di andare a migliorare anche l'utilizzo oggi del nostro cellulare, viene utilizzato principalmente solo per telefonia. Stiamo entrando in questo mercato per offrire una serie di servizi soprattutto dedicati a una clientela del mondo bancario, perché non ci scordiamo che Noverca ha come parte una delle più grandi banche italiane, che è Intesa San Paolo. Quindi il nostro intento è andare a permettere per esempio l'accesso facile al conto corrente di Intesa San Paolo. Poi l'utente dal suo telefonino potrà vedere il saldo, potrà controllare il suo conto corrente e tutta quanta un'altra serie di servizi che oggi non sono presenti e che riteniamo potranno veramente essere valutati in maniera molto positiva dagli utenti. Carnevale, i servizi bancari arriveranno in autunno, comunque entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda invece i servizi che voi chiamate georeferenziati, sono già attivi? Ci può spiegare di che cosa si tratta? Servizi georeferenziati, facciamo riferimento a farmacie aperte, quali sono i nostri cinema, quali sono i ristoranti, gli alberghi, i bancomat del gruppo Intesa San Paolo e ovviamente il benzinaio ad esempio più vicino. Quindi tutto basandosi solo su, diciamo, le informazioni contenute sulla rete. Esatto, sì, la posizione viene determinata dalla rete e tutti quanti, diciamo, la tecnologia di Noverca fa la selezione dei punti di interesse. Il punto di forza, ad esempio, è che nella farmacia non viene restituita una farmacia chiusa, ma solamente quella aperta. Noverca, abbiamo detto, è uno degli ultimi operatori mobili virtuali ad essere arrivati sul mercato in Italia, ma al di là dei servizi nuovi e innovativi che stanno arrivando, che arriveranno nei prossimi mesi. L'arrivo di questi operatori ha portato vantaggi in termini di concorrenza e quindi anche vantaggi in termini di prezzi? Lo abbiamo chiesto a Mario Rossi, che ha realizzato un approfondimento dedicato agli operatori mobili virtuali a 2 anni dall'arrivo sul mercato in Italia su Cellulare Magazine. No, è servita qualche cosa, perché ovviamente all'inizio questi nuovi operatori non facevano altro che rivendere gli stessi servizi dell'operatore normale a cui si appoggiavano, con uno sconto di 1-2 centesimi al minuto. Adesso invece ci sono delle classificazioni diverse. Facciamo il caso, per esempio, di Poste Mobile, che ha lanciato il piano convenienza, che permette di parlare verso tutti, quindi verso i telefoni fissi e verso il telefono mobile di qualsiasi operatore, a 11 centesimi al minuto senza scatola risposta, che è un buon prezzo. E quindi questo è un buon risultato a 2 anni dall'arrivo di questi operatori. Chissà, tra poco ci sarà anche qualcuno che comincerà a dare gratuitamente la voce, quindi il traffico voce, magari proprio perché vuole spingere i propri servizi e regala questo traffico per poi vendere altro sulle proprie SIM. Adesso parliamo di sistemi di messaggistica in tempo reale. Saluto Luca Colombo, che è direttore marketing consumer e online di Microsoft in Italia. Bentornato a 2024. Grazie, buongiorno. Oggi parliamo, dicevo, di sistemi di messaggistica in tempo reale, che sono un fenomeno ormai consolidato in rete. Se facciamo riferimento ad un panorama di navigatori che supera di poco i 20 milioni ogni mese in Italia, quanti sono quelli che usano un sistema di messaggistica in tempo reale? Ma all'incirca siamo intorno al 73% di persone che naviga online e che utilizza appunto un sistema di messaggistica istantanea, tra questi Messenger piuttosto che Skype. È un numero oramai abbastanza stabile, perché è una categoria che è cresciuta parecchio nei mesi passati. Infatti nell'ultima rilevazione di novembre, quando abbiamo fatto la precedente edizione, eravamo al 72%, in questa edizione appunto abbiamo rilevato il 73%, quindi una crescita soltanto di un punto percentuale negli ultimi 6 mesi. Importante però, è un fenomeno appunto consolidato che già raggiunge i numeri importanti, intorno ai 14 milioni. Voi avete analizzato già da parecchi mesi, attivato un osservatorio per capire che cosa si dicono anche le persone attraverso questi sistemi di messaggistica in tempo reale, e in questa ultima edizione che avete presentato da poco vi siete concentrati sulla politica anche in vista delle prossime elezioni. Che cosa avete scoperto? Sì, infatti abbiamo cercato di indagare come gli utenti utilizzano instant messaging per informarsi di politica, soprattutto in questo periodo caldo, e poi in generale anche quello che, se vogliamo, è uno spaccato dei giovani. I giovani, si dice che non hanno particolare interesse alla politica. Abbiamo voluto, avendo Messenger una forte penetrazione verso questa fascia d'età, abbiamo voluto domandare a loro qual era il sentiment su questa tematica. La cosa interessante è che ben il 66% delle persone intervistate nella fascia 18-24 ha dichiarato interesse verso la politica, cioè si appassiona il 15% e si informano di tematiche di politica il 51%, quindi una sorpresa positiva, quantomeno per noi, proprio perché quello che invece la sensazione è che i giovani siano molto lontani dalla politica. Quello che è emerso dalla ricerca poi è che, ahimè, invece questa vicinanza o questo interesse verso la politica non è altrettanto corrisposto in termini di tematiche, linguaggio e modi di comunicazione della politica verso i giovani. A livello pubblicitario, la politica si è accorta di internet oppure no? Non so dire se l'esempio di Obama ha fatto da traino, però con le europee alle porte, quello che abbiamo visto è che rispetto agli anni passati certamente il mondo della politica ha utilizzato lo strumento web per fare comunicazione. Hai citato tu pubblicità, ha sicuramente utilizzato lo strumento in maniera molto più importante rispetto al passato. Seguiteci ogni settimana nel pomeriggio del sabato di Radio 24, dalle 15.30 alle 16.30 va in onda 2024. oppure ci trovate online quando volete su www.radio24.it e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per scaricare, aggiornare settimana dopo settimana in modo automatico il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Il cybercrime è una cosa talmente seria che l'amministrazione Obama nominerà presto un coordinatore per la cybersicurezza e anche uno specifico comando militare sarà presto pronto a lanciare dal Pentagono guerre su campi di battaglia informatici. Quindi gli Stati Uniti si preparano, o meglio, si organizzano meglio per la vera e propria guerra informatica. Obama ha detto che gli attacchi di cyberterrorismo alle reti digitali sono una delle minacce più serie alla sicurezza nazionale americana. From now on, our digital infrastructure, the networks and computers we depend on every day, will be treated as they should be, as a strategic national asset. Protecting this infrastructure will be a national security priority. Barack Obama ha parlato di questo ieri dicendo che l'infrastruttura digitale del paese, quindi internet, ma anche tutte le reti che collegano le varie strutture federali, verranno trattate come un asset strategico nazionale e la protezione di questa infrastruttura sarà una priorità della sicurezza nazionale. Il cyberspazio, ha anche detto Obama, è un mondo da cui dipendiamo ogni giorno, è fatto dei nostri computer, del software, dei cellulari, dei BlackBerry, perché Barack Obama usa BlackBerry e quindi ci tiene sempre a sottolinearlo, che dice sono diventati parte del tessuto della nostra quotidianità. Beh, non ci voleva certo Barack Obama ricordarci che oramai internet è per molte persone parte della vita quotidiana e lo sarà sempre di più. Per questo in tutto il mondo ci si interroga anche sul futuro delle infrastrutture della rete internet, sul fronte della sicurezza ma anche sul fronte della capacità delle reti di trasportare dati fino alle nostre case, fino alle nostre aziende. C'è un dibattito aperto in tutto il mondo. Il tema è come costruire una rete internet per garantire che tutto quello che stiamo costruendo oggi possa continuare a funzionare anche in futuro, nei prossimi anni, ma non nei prossimi 3, 4, 5 anni, nei prossimi 50 anni, tenendo conto anche della crescita del traffico della rete. Alcune domande se le sta facendo anche l'Italia. Alcune risposte le ha date Francesco Caio, che è stato chiamato dal governo italiano a delineare alcune direzioni per la realizzazione di quello che molti chiamano Next Generation Network, la rete della prossima generazione. Francesco Caio è nei nostri studi, grazie per essere con noi, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Lei è stato chiamato per cercare di delineare uno sviluppo oramai necessario per la banda larga. Partiamo proprio da qua. Lei nel documento che ha presentato al governo italiano parla di leadership in un settore che oramai è strategico e lei scrive addirittura portante del sistema economico, ma non solo economico, anche sociale. Per quale motivo? Io partirei da una considerazione che è quella che appunto parte dal fatto che in Italia ogni giorno, oggi, 20 milioni di cittadini utilizzano lo strumento internet e più del 90% delle imprese. Quindi quello che all'inizio, a metà degli anni 90, era considerato uno strumento interessante, poi diventato utile, oggi non solo in Italia ma in molti paesi del mondo inizia a essere considerato indispensabile. Ed è probabilmente da questa indispensabilità, dalla percezione che questa è diventata una rete indispensabile, che si muove l'interesse dei governi, non solo italiano, ma sicuramente americano e molti altri in Europa. Immagino, penso che sicuramente sia così, che almeno i 20 milioni di navigatori della rete siano consapevoli che ormai è necessario avere internet. Lei, che tra l'altro ha contatti in modo particolare col governo britannico ma anche con altri governi europei, cosa nota della nostra politica o comunque della nostra leadership? Che questo sia un concetto che è stato compreso o no? Io penso che lo stesso compito che mi è stato dato testimonia un crescente interesse, una crescente consapevolezza dell'importanza di questo strumento di questa, diciamo, di questa tecnologia, che poi si chiama banda larga, ma in effetti è accesso ai servizi internet e con tutto quello che questo consegue. Sì, infatti lei scrive non solo Next Generation Network, ma Next Generation Access, cioè accesso di nuova generazione. Assolutamente sì. Ecco, io penso che anche in Italia c'è una crescente consapevolezza. Adesso nei contatti che ho avuto, anche per metterla un po' più sull'aneddotica, un autorevole esponente del mondo politico mi diceva che negli ultimi anni, diciamo, i contatti con i suoi elettori, le constituency, se proprio non vogliamo usare la parola raccomandazioni, si sono trasformate, che fino a qualche anno fa andavano a chiedergli di spostare dei parenti da un comune a un altro, oggi chiedono di avere la banda larga. Ah, questo è sicuramente interessante. È sicuramente interessante, sì. Perché rende il politico, animale concreto, molto sensibile a queste tematiche. Cioè ci si rende conto, sia, diciamo, adesso non vorrei elaborare più di tanto su questo, però è un segnale, un'indicazione che io trovo importante, a livello, diciamo, di vita quotidiana, ma sia a livello di prospettiva europea, questo è molto centrale. Aggiungo che nell'occasione del summit su Digital Britain che abbiamo avuto col governo inglese circa un mese fa, lo stesso Gordon Brown ci diceva come nell'ambito della riunione dei G20 avuta a Londra a marzo, la banda larga funzionava quasi come un magnete invisibile, cioè parlavano dello sviluppo dell'auto e finivano a parlare della banda larga, parlavano della casa, finivano a parlare della banda larga, cioè è diventato uno strumento trasversale con cui tutti bisogna fare i conti per garantire continuità di sviluppo e di crescita delle economie. Quindi stiamo anche parlando di un concetto che si sta sempre più spostando verso l'universalità del servizio, cioè tutti i cittadini, tradotto tutti i cittadini, hanno diritto ad accedere alla rete internet. Ecco, ancora non siamo proprio ad articolarla come l'ha articolata lei in senso di diritto universale, ma sicuramente c'è una fortissima spinta in quella direzione, proprio perché se si considerano anche i programmi cosiddetti di e-government, cioè di digitalizzazione della pubblica amministrazione, questi possono essere portati a termine e conclusi solo nella misura in cui tutti i cittadini possono accedervi. E nel caso italiano noi abbiamo, se vuole, un sincronismo fra i piani annunciati da Brunetta sull'e-government e quanto emerge come considerazione nel documento del rapporto che ho consegnato sulla opportunità di considerare piani per raggiungere la totale e la copertura della popolazione nello stesso arco temporale. Certo, sarebbe inutile produrre una serie di servizi, trasformare, digitalizzare i servizi senza poi averne accesso. Si correrebbe il rischio di avere due sistemi in parallelo, quello analogico cartaceo e quello digitale. Sì. Le faccio una domanda banale, ma perché abbiamo bisogno di una nuova rete? Quella che c'è oggi non basta? Non sarebbe sufficiente estendere i rami di quella oggi presente? Perché invece nei documenti, ma non solo in Italia, si parla di una nuova infrastruttura. Io penso che si debba prendere qui una prospettiva di medio termine e vada presa, perché costruire una qualsiasi nuova rete di accesso richiede degli anni. Allora, oggi, se facciamo un'istantanea dei bisogni del mercato, la stragrande maggioranza degli utenti è più che soddisfatta con la rete attuale. Ma sempre di più iniziamo a intravedere i limiti di una rete che, ricordiamoci, è stata sviluppata più di 70 anni fa con l'obiettivo di avere tante conversazioni molto corte in banda molto stretta. Oggi noi la stiamo usando per conversazioni, fra virgolette, per sessioni molto lunghe, simultanee, per una varietà crescente di servizi. Allora io penso che sia ragionevole porsi il tema di un aggiornamento e di un ciclo di innovazione su questa rete. Adesso per noi c'è una breve pausa, ci fermiamo, ascoltiamo insieme le notizie che arrivano da strade e autostrade, poi vorrei riprendere cercando di capire, e vorrei chiederle se siamo in ritardo o siamo allineati, almeno dal punto di vista del dibattito su questi temi, lo abbiamo detto e ripetuto, strategici, importanti per il futuro non solo della rete internet, ma proprio del paese, della competitività del paese. Ci risentiamo tra circa un minuto. Audi. 2024. Stiamo parlando dello sviluppo della rete a banda larga in Italia, ma non uno sviluppo guardando il breve periodo, quindi tra un anno, due, tre anni, ma stiamo parlando di quel dibattito che fa riferimento al cosiddetto Next Generation Network, quindi la rete di prossima generazione. Quando parliamo di generazione parliamo proprio di un lungo periodo, quindi la rete che avremo nei prossimi 10, 20, 50 anni. Una rete naturalmente basata prevalentemente sulla fibra ottica che dovrà arrivare direttamente nelle case di molti italiani, se non, speriamo, di tutti gli italiani. È con noi Francesco Caio, che è stato chiamato prima dal governo britannico ma poi anche da quello italiano per cercare di almeno delineare alcune strade che poi sono spunto anche di un dibattito molto complesso. Dottor Caio, siamo in tempo o siamo in ritardo? Facendo un confronto almeno con gli altri paesi europei, senza andare a toccare gli Stati Uniti oppure l'Asia, dove addirittura ci sono esempi come il Giappone e la Corea che sicuramente sono molto avanzati dal punto di vista della diffusione della fibra ottica in molte città soprattutto. Ma stando in Europa, a che punto siamo? Ma se io guardo all'Italia all'inizio degli anni 2000, noi abbiamo accumulato, fra virgolette, un vantaggio più che un ritardo, perché con Fastweb, perché ha sviluppato la rete in fibra, con la stessa Telecom che ha lanciato Alice e l'unbundling, noi ci siamo posizionati fra il 2000 e il 2003 come fra, diciamo, abbastanza una posizione di leadership in Europa. Oggi molti paesi si stanno ponendo lo stesso tema. Dire che oggi siamo in ritardo sarebbe un'esagerazione, ma sarebbe ingenuo non considerare la velocità con cui gli altri paesi si stanno muovendo. Siamo ancora tutti sulla linea di partenza, ma iniziamo a vedere alcuni paesi come l'Olanda, la Svezia, la Norvegia e anche la Germania e l'Inghilterra che iniziano a cambiare un po' marcia, che hanno completato le loro riflessioni e che si stanno spostando da un momento di riflessione all'azione. E quindi non siamo in ritardo, c'è un'opportunità di restare leader, ma bisogna muoversi con una certa fretta. Sì, infatti lei scrive: i giochi si fanno adesso, in questi anni, forse mesi? Prossimi 12-18 mesi, io penso che sarebbe importante delineare un po' quali possono essere le linee guida. Senta, concretamente fare una nuova rete significa stendere fibra ottica, quindi scavare, riproporre alcuni lavori che abbiamo visto appunto all'inizio degli anni 2000? Sì, è un discorso articolato, ma diciamo nella grande generalità dei casi, soprattutto nelle aree ad alta densità, significa andare a investire in modo importante su lavori di edilizia pubblica, i lavori civili, gli scavi e la messa in opera, in posa, di nuovi cavidotti. Ora, una delle tematiche che emerge anche nel rapporto è l'importanza di stilare un po' un censimento di queste infrastrutture in Italia. Ci sono stati dei progetti, ricordiamo tutti il progetto Socrate e qualche anno prima il progetto Europa, che hanno già portato una certa innovazione nei cavidotti. Ecco, però sì, l'80% nella media, l'80% dell'investimento in nuova rete significa nuovi cavidotti. Sì, anche perché mi sembra di capire che la prossima sfida sia quella di arrivare con la fibra, se non proprio nella casa, almeno in portineria. Sì, sicuramente. È un tema di capillarità ed è la capillarità che è un fattore importante nella gestione, nel fatto che poi costa tanto. Ecco. Sì. Noi stiamo parlando in maniera molto semplice di un processo molto complesso, perché qua ci sono problemi regolamentari, problemi di concorrenza, problemi anche economico-finanziari. A proposito di questo, questa nuova rete chi potrebbe pagarla? O chi dovrebbe pagarla? Guardi, questa è la questione centrale che oggi i governi si pongono, e direi che se la pongono proprio perché non è facile. Nel senso che oggi c'è una crescente coscienza nel capire e nell'osservare che costruire una nuova rete d'accesso è di fatto un monopolio. È un monopolio naturale, perché così come non abbiamo due tubi del gas che entrano in casa nostra o due cavi portanti dell'energia elettrica, è molto difficile ipotizzare che ci saranno in futuro due fibre. Non ci sono due doppini rame, non ci saranno due fibre. Questo è tanto più vero in Italia, dove non esiste un'infrastruttura alternativa di televisione via cavo. cosa che invece nel caso inglese può, se non altro, spingere, come dire, l'incumbent, chi c'è già, British Telecom, a fare degli investimenti. Quindi la sua domanda, chi paga, è la domanda, perché risulta sicuramente sfidante per aziende private giustificare questi investimenti che hanno un ritorno che è forse più vicino ai 5-7 anni che non ai 3-4, che sono i ritorni tipici di, richiesti da azionisti di aziende private. C'è qualcuno che sta dando, beh, lei già alcune risposte le ha scritte, diciamo le risposte sulle quali si sta dibattendo di più quali sono? Ma io penso che sia un po' quello che lei diceva all'inizio, cioè da una parte la coscienza che questa è una struttura importante implica darsi degli obiettivi per ogni paese. Implica per i governi di definire un po' quali sono le priorità. Una volta definite quelle, ed è questo secondo me di cui oggi il dibattito importante, più importante, da quelle poi derivano una serie di cose. Io penso che da un punto di vista diciamo, di una priorità importante sia quella di estendere la copertura dei servizi in banda larga a un numero più alto di cittadini di quanto non sia oggi la situazione in Italia. Però è questa una tipica decisione di politica industriale su cui il governo dovrà fare poi le sue riflessioni. Senta, col senno di poi, dopo parecchi anni, noi abbiamo assistito 15-20 anni fa ad un processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Guardando questo processo con gli occhi di oggi, cosa che non è successa solo in Italia, possiamo dire che abbiamo come paesi europei sbagliato, cioè forse era meglio tenere la rete pubblica così come è successo per altre infrastrutture, ad esempio in Italia stiamo parlando di un'infrastruttura completamente diversa, ma la rete ferroviaria ad esempio è pubblica e poi la concorrenza la si fa sui servizi. Ma come diceva lei è sicuramente una tematica che sta riemergendo fortemente in tutta Europa, proprio perché c'è un mismatch, un disallineamento fra la prospettiva tipica dell'investimento pubblico e la necessità dei ritorni dell'investimento privato. Io penso che oggi ci sia una crescente consapevolezza che se da una parte la liberalizzazione delle telecomunicazioni o almeno il percorso fatto negli ultimi 10 anni ha portato a più scelta, a una pressione sui prezzi, a una maggiore innovazione, per quello che riguarda la rete di accesso fissa questo è stato relativamente marginale. E quindi oggi ci si ripone il tema di come gestire lo sviluppo di un'infrastruttura che per sua natura pone dei vincoli al numero di persone che possono costruirla. Lei ha una lunga esperienza non solo in ambito tecnologico ma anche finanziario. Allora vorrei capire, le ipotesi che lei ha proposto anche al governo italiano parlano di un investimento per creare una rete, come lei la definisce, da leader in Europa, un investimento nell'arco di alcuni anni di 10 miliardi di euro. C'è un'altra ipotesi che è grosso modo della metà. Stiamo parlando di cifre non mi sembra esagerate. No, non, sicuramente non sono esagerate, ma è opportuno aggiungere un'altra prospettiva, che è la prospettiva di quanto i clienti siano disposti a pagare per queste nuove infrastrutture. Ed è uno degli altri temi centrali, perché al momento l'evidenza di un numero elevato di clienti che è disposto ad aumentare il canone mensile per la banda larga di un 30% è molto limitata, cioè non c'è evidenza, sentimento forte di questa domanda. Questo significherebbe che anche se, come diceva lei, queste cifre non sono così enormi, andrebbero comunque investite senza una forte visibilità della domanda. E in questo momento, direi ulteriormente accentuato dalla crisi finanziaria, è difficile immaginarsi un management che si presenta al suo consiglio d'amministrazione chiedendo questo tipo di investimenti senza una ragionevole visibilità di ritorni. Quindi lei dice lo stesso imbarazzo che prova il manager nel consiglio d'amministrazione lo potrebbero avere anche i politici? No, dico che questo è più ragionevole ipotizzare come investimento in qualche modo con una nuova frontiera fra pubblico e privato, perché almeno la componente pubblica è più, diciamo, consona ad un ritorno che si avvicina ai 10 anni che non ai 3. un elemento che emerge chiaramente, questo non solo in Europa, in Italia, ma in Europa, è che l'impostazione o l'investimento pubblico qui non sarebbe un fondo perduto, sarebbe un modo di impiegare un capitale pubblico in un periodo in cui questo investimento potrebbe avere anche una funzione anticiclica, perché abbiamo detto che l'80% sarebbero lavori edili sul territorio, quindi si possono far partire rapidamente, ma che ha un ritorno probabilmente più vicino ai 10 da, non so, un buono del tesoro pluriennale, mi lasci dire, che non un certificato azionario che invece ha un suo dividendo, un suo rischio ritorno più elevato. Sì. Lei sta lavorando con il governo italiano e con soprattutto col governo britannico. Qual è il ruolo, se esiste un ruolo, se è possibile che ci sia un ruolo delle amministrazioni locali? Cioè, mi spiego, se lo Stato non si dà una mossa per costruire questa rete, esiste la possibilità, e magari esiste già concretamente oggi, che ci siano delle municipalità, magari grandi municipalità o addirittura piccole municipalità, che si preoccupano di costruire una rete per i cittadini? Ma in Europa, diciamo, noi abbiamo visto i progressi maggiori in paesi come la Svezia, la Danimarca, la Norvegia, proprio perché sono state le autorità locali e le comunità locali a farsi carico di questi investimenti, a volte anche con dei meccanismi e dei sistemi innovativi come quelli di mettere a fattor comune i cavi dotti e poi lasciare il servizio gestito da altri. In Italia noi abbiamo già una esperienza abbastanza forte di enti locali che hanno avviato la costruzione e la gestione di reti. La tematica vera è quella della standardizzazione e del coordinamento, per non citare quella delle competenze. Cioè noi, e c'è nel rapporto, abbiamo stimato che negli ultimi 5-6 anni più di 700 milioni di euro sono stati investiti in Italia a livello di enti locali. In alcuni casi questi hanno portato a delle reti che funzionano, in altri, ahimè, a delle iniziative che poi non hanno trovato un naturale sbocco nell'ampliare, no, il footprint, come si dice, la copertura di rete. Bene, io la ringrazio per essere stato con noi, anche per il lavoro che ha fatto, perché oltre che ad essere un lavoro professionale, anche una buona spinta per il futuro del nostro paese. Grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a voi. E sicuramente l'augurio che possiamo farci è che di questo non si parli solamente in un programma che si occupa di tecnologia, che sicuramente è preoccupato, comunque attento all'evoluzione tecnologica anche della rete in banda larga, ma visto che si tratta del futuro sia della competitività del paese, ma anche, come dicevamo all'inizio, del tessuto sociale del paese che si sta gradualmente spostando anche online, beh, che si parli di questo in un dibattito più aperto, non solo alla radio, ma su tutti i media in generale, anche in altri programmi. Bene, così si chiude questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie a Luigi Borghi in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio 24, nel pomeriggio di Radio 24 del sabato, oppure online su www.radio24.it. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.